fede e scienza. L'affermazione del peccato originale è legata a doppio filo a quella dello stato di innocenza originario. È comprensibile che alla cultura evoluzionista risulti particolarmente ostica l'idea che l'uomo fosse più perfetto al momento della creazione rispetto al momento attuale. Tutto ciò è dovuto a presupposti filosofici come l'idealismo, il materialismo ed il razionalismo, che sottolineano molto l'autonomia dell'individuo e il progresso come legge necessaria. Invece, nella corrispondenza di principio e fine che si dà in Cristo, Alfa e Omega, lo scopo della vita umana, cioè il senso, il motivo del vivere, dipende proprio da quel principio, da quello stato di innocenza. Basta guardare gli effetti disperanti di un'impostazione che lo esclude per comprenderne l'importanza. Qui si gioca anche il rapporto tra filosofia e teologia. Quale filosofia bisogna sviluppare? Quella dell'uomo caduto, cristallizzando la situazione segnata dal peccato originale, o quella dell'uomo secondo il disegno di Dio? Ma dove si può vedere quest'uomo? Ovviamente in Cristo e nella Vergine. E ciò sarebbe possibile senza che la filosofia diventi, con il ricorso alla fede, teologia, perché l'umanità del Cristo rivela anche le aspirazioni più profonde dell'uomo, perché la misericordia permette di conoscersi e di comprendere ciò che è insito nel cuore di ciascuno. Si pensi ad esempio al desiderio di essere amati e di amare, all'aspirazione, all'amicizia e alla famiglia. La crisi di fede in cui purtroppo si trova il mondo attuale è legata anche al complesso di inferiorità di quei cristiani che hanno rinunciato a pensare l'umano a partire dalla rivelazione, per non imporre nulla ai non credenti. Invece Cristo svela l'uomo all'uomo, Gaudium et Spes 22, proponendo a tutti un cammino per diventare più umani, che include affermazioni e tappe condivisibili anche a prescindere dalla fede. Il rapporto tra filosofia e teologia, così come quello tra scienza e fede, si gioca proprio sulla comprensione dell'origine della ragione logos e della volontà dell'uomo, cioè sullo studio dell'immagine divina nell'uomo. Per questo Giovanni Paolo II aveva invitato alla fine della Fides Erratio a filosofare in Maria, cioè a pensare a partire dal disegno divino che si mostra perfettamente nella Madre di Dio. Le difficoltà nel rapporto tra fede e ragione sono connesse alla dimensione anche sociale del peccato. Eva è tentata dal diavolo e tenta a sua volta Adamo. L'essenza del peccato commesso dai progenitori era l'orgoglio, cui cedettero accettando la tentazione. Si tratta di una tentazione comune, che diventa vergogna comune e che rompe l'armonia reciproca. Il peccato è dunque sia individuale che sociale. Questo fatto ha a che vedere con le teorie sull'origine del genere umano, il monogenismo ed il poligenismo. Secondo la scrittura, una sola coppia ha dato origine all'umanità, e la stessa coppia ha peccato, per cui tutta l'umanità è stata segnata da quella colpa che Cristo ha cancellato con la redenzione, salvando così ogni uomo. L'esegesi, seguendo lo sviluppo delle scienze, in particolare della teoria evoluzionista, ha iniziato a dubitare del monogenismo, considerando che la parola Adamo viene dal termine Adamà, che significa dalla terra. Ciò lascerebbe pensare che la parola avesse un senso collettivo e indicasse una prima comunità primitiva che forse avrebbe peccato di idolatria. La figura del serpente sembra, infatti, rimandare a un contesto culturale e appunto idolatrico. La ricerca scientifica, per definizione, si limita a risultati parziali, poiché il flusso dei dati sperimentali costantemente erode le capacità di spiegazione di una determinata teoria. Così, i primi dati offerti dall'ambito paleontologico furono usati per sottolineare una presunta inconciliabilità tra dogma della creazione ed evoluzione. Oggi, invece, gli studi genetici danno credito alla teoria del monofiletismo, in base alla quale tutti gli individui umani proverrebbero da un unico individuo vissuto tra i 50.000 e i 100.000 anni fa. Il Magistero della Chiesa si è sempre espresso in termini monogenisti e Pio XII, nell'Humani Generis 1950, dopo aver riconosciuto il valore dell'ipotesi evoluzionista, ha esplicitamente escluso il poligenismo. Giovanni Paolo II, nel 1996, in un discorso tenuto alla Pontificia Accademia delle Scienze, in occasione del 60° anniversario della sua rifondazione, affermò che l'evoluzione non poteva essere più considerata una mera ipotesi, ma che doveva essere trattata come una solida teoria scientifica. Nello stesso tempo ne evidenziò la differenza rispetto a una visione filosofica e non più strettamente scientifica del mondo e dell'uomo, incompatibile con la verità rivelata e la dignità della persona. L'origine dell'uomo richiede un salto ontologico che può essere colto solo mediante la riflessione filosofica. A livello teologico, il parallelo biblico tra Adamo e Cristo indica chiaramente che come Cristo è stato un individuo concreto, tale debba essere stato anche Adamo. Basta osservare l'insistenza di Paolo sull'espressione un solo uomo in Romani 5:12-19. Non si tratta di negare la dimensione sociale del peccato, ma di non perdere quella individuale che la fonda e di non confondere tentazione e peccato. Ovviamente ciò rimanda a quale sia la concezione dell'uomo. In una prospettiva positivista, idealista o materialista, è impensabile che si riconosca tale importanza alla singola persona. Diversa è la prospettiva biblica che mette al centro la libertà. La scienza naturale studia l'ambito della necessità e il suo dominio di applicabilità è limitato alla presupposizione che le leggi che governano l'oggetto studiato non cambino. Ovviamente ciò non si applica al dominio dello spirito laddove entra in gioco la volontà, sia da parte di Dio che crea, sia da parte dell'uomo che pecca o ama. Per questo Joseph Ratzinger ha scritto: qui sta anche il motivo per cui è impossibile per la paleontologia poter fissare l'istante della formazione dell'uomo. Il diventare uomo è il sorgere dello spirito e tale evento non può venir dissotterrato con la vanga. La teoria evoluzionista non toglie la fede neppure la rafforza, ma la invita a capire più profondamente se stessa e ad aiutare così l'uomo a comprendersi e a diventare sempre più ciò che lui è. L'essere che per l'eternità può dire tu a Dio. Dogma e predicazione, pagina 136. La visione cristiana tiene insieme sia la dimensione sociale che quella individuale, perché l'uomo è persona e quindi è se stesso proprio nella relazione con l'altro. Alla libertà di Adamo corrisponde un effetto su tutti gli uomini, proprio perché ogni uomo è figlio. Il peccato viene infatti trasmesso attraverso la generazione umana. Agostino, in alcuni testi, lascia quasi intravedere una certa peccaminosità intrinseca agli atti legati alla procreazione. Ma la generazione non è causa efficiente del male, solo mezzo della sua trasmissione. Il dogma del peccato originale mette così in evidenza anche la dimensione sociale dell'essere uomo. Nessuno pecca da solo e quindi nessuno può giudicare la persona, tranne Dio. Il Catechismo afferma che il peccato personale di Adamo ed Eva ha intaccato la natura umana, da allora in poi trasmessa in condizione decaduta. Perciò il nostro peccato originale è chiamato peccato in modo analogico, è un peccato contratto e non commesso, uno stato e non un atto. Numero 404. Sono infatti numerose le affermazioni della Scrittura che si riferiscono all'universalità del peccato. In Coelet 7:20 si dice che sulla terra non c'è uomo che non pecchi. Nel Salmo 50:7 si dice: nel peccato sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. In Romani 5:12 si dice che la morte ha raggiunto tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Le difficoltà ad accettare tutto ciò derivano dalla visione profondamente individualista della società moderna, dalla sua concezione monadica, per la quale l'uomo è visto come pura autonomia, che in un certo senso è prova e conseguenza dello stesso peccato originale. Le difficoltà ad accettare tutto ciò derivano dalla visione profondamente individualista della società moderna, dalla sua concezione monadica, per la quale l'uomo è visto come pura autonomia, che in un certo senso è prova e conseguenza dello stesso peccato originale. Il peccato originale offusca la mente umana e il senso di quella solidarietà che rende possibile la sua trasmissione. L'uomo, invece, è impensabile senza le relazioni fondanti che lo costituiscono, poiché è figlio nel figlio.